2024 di Enrico Pagliarini. Benvenuti o bentornati a 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, come la tecnologia ci cambia la vita. Sono le 15:33 minuti, siamo in diretta anche in questa settimana, puntata del 15 dicembre 2012. Iniziamo dalle Mega Summit di Dubai, un summit organizzato dall'ITU, International Telecommunication Unit, l'entità delle Nazioni Unite che si occupa di telecomunicazioni. Allora, un mega summit che è durato 12 giorni, organizzato per riformare o per tentare di riformare il trattato che regola dal 1988 il mondo delle telecomunicazioni e stabilisce i principi generali con cui le reti di telecomunicazione si interconnettono tra gli stati. Naturalmente nel 1988 si parlava e si discuteva, e quindi questo trattato era prevalentemente fondato sulle reti telefoniche. Sono cambiate molte cose, quindi si sentiva l'esigenza di cambiare, o meglio, alcuni sentivano l'esigenza di cambiare, altri no. Dopo 12 giorni di lavori, il summit è sostanzialmente fallito, perché su 144 paesi con diritto di voto solo 89 hanno firmato, 55 non lo hanno fatto. Allora, secondo il comunicato ufficiale, questi 55 potrebbero farlo in un secondo momento, ma è molto probabile che quasi nessuno firmerà questo trattato. E visto, tra l'altro, che l'ITU di solito decide con ampia maggioranza, se non all'unanimità, questo è, a detta degli addetti ai lavori, un fallimento che molti, tra l'altro, attribuiscono al segretario generale Tore. Ma non entriamo in questa polemica, anche perché queste sono problematiche diplomatiche che verranno affrontate a livello di governo. Allora, quello che è importante è che è fallito il tentativo soprattutto di imporre sulla rete internet una, potremmo dire, governance centralista, centralizzata, un maggiore controllo. Contrari a questo approccio sono stati soprattutto gli Stati Uniti, ma questo già da tempo, e anche l'Unione Europea, che si è presentata con i singoli stati. Allora, anche l'Italia non ha firmato, così come tutti i paesi dell'Unione Europea. Adesso bisognerà capire qual è il valore di questo nuovo trattato, ma sicuramente il segnale che il mondo è diviso sostanzialmente in due parti, cioè gli stati, dove almeno nei principi c'è la garanzia di una rete libera, con poche regole, e gli stati con regimi autoritari o governi poco democratici che vedono in internet una minaccia al loro sistema. Va anche detto che questi stati, con o senza questo nuovo trattato, fanno già quello che vogliono, quindi il controllo sulla rete lo possono attuare e lo attuano, le cronache insomma di tutte le settimane, quello che succede in molti paesi, a partire dalla Cina, di cui discutiamo e parliamo spesso. Allora, è molto probabile che queste nuove regole riguardino solo i paesi che hanno firmato e non quelli che non hanno firmato, quindi insomma diciamo che noi in Europa stiamo abbastanza tranquilli, quindi per quanto riguarda la rete internet poco cambia, e questo lo diciamo visto che ce ne siamo occupati da tempo del summit di Dubai. Alcuni pensavano e credevano che potesse cambiare molto, ma noi insomma già da un po' di tempo abbiamo detto che poco poteva cambiare. Tuttavia è molto interessante perché alcuni stati e anche alcune organizzazioni internazionali hanno posto l'attenzione, quindi hanno aperto un dibattito su alcuni problemi, e anche di questo parleremo nella seconda parte con Franco Bernabè, il presidente esecutivo di Telecom Italia, che sarà nostro ospite in questa puntata. Adesso cambiamo argomento e parliamo di cinema e di un film che propone una nuova tecnologia. Allora, probabilmente ne avrete sentito parlare, si chiama Lo Hobbit, da 2 giorni in programmazione, viene proposto in 3D e 48 frame al secondo, cioè il doppio rispetto al normale numero di fotogrammi in un film. Allora, ne parliamo con Piero Fumagalli, che è proprietario dei multiplex Arcadia, ce ne sono già tre vicino a Milano. Ricordiamo che quello di Melzo è ancora oggi in Europa uno dei riferimenti per le sale cinematografiche. Se non siete mai andati, se avete l'opportunità, la sala Energia è sicuramente uno spettacolo in sé, oltre che poi uno va a vedere un film, e quindi già quello è un altro spettacolo. Fumagalli, buongiorno e benvenuto 2024. Eccomi, ciao, grazie, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, partiamo dalle tecnologie che, come dicevo, hanno archiviato la pellicola. Oggi i film, quando si dice proiezione in digitale, 3D digitale, eccetera, eccetera, come vengono proiettate? In realtà sono dei file che nei primi anni arrivavano attraverso dei driver. Adesso oramai arrivano quasi totalmente via satellite, quindi vengono scaricati su dei server che fanno da magazzino, a cui poi ogni sala va a pescare il film che deve proiettare. Quindi sono praticamente dei file puri e semplici. Dei file giganti, immagino. Sì, Hobbit per esempio, che ha 48 fotogrammi al secondo, sono 500 gigabyte. E arrivano, quanto tempo ci impiegano ad arrivare via satellite questi file? Il satellite, il Hobbit lo scarica praticamente con lo stesso tempo della durata del film, grosso modo. Ah, quindi ci vuole un paio di ore, 2-3 ore. Vabbè, Hobbit ci sono voluti 5 ore. Allora, questo è il primo fine settimana di programmazione di questo film. Prima di parlare di questa tecnologia a 48 frame, che sicuramente per la prima volta, insomma, presenta una novità nel mondo del cinema, l'occasione buona per parlare anche di un problema che c'è stato, ma anche questo problema ci dà l'occasione per parlare di un'altra tecnologia che viene utilizzata, cioè quando vi arriva il file, questo file di fatto è illeggibile, cioè è assolutamente tutto scorporato, che è quindi del tutto illeggibile. Questo per la pirateria, ovviamente, cioè per evitare che voi questo file lo mettiate in rete, cioè, naturalmente riscalandolo poi potete mica mettere 500 giga in rete, ma cosa vuol dire? È bloccato, e quindi per sbloccarlo che cosa è necessario sbloccarlo fare? Per sbloccarlo basta una chiave che viene mandata via email al direttore di sala, la quale sblocca il file in un determinato tempo, quindi lo sbloccherà dal giorno X a mezzanotte fino al giorno Y, cioè quindi loro possono controllare sia il tempo in cui il file può essere usato, e sia ovviamente che venga usato dallo stesso proiettore e dallo stesso server, in modo che uno non possa portarsi a casa, non possa scappare, esatto. E normalmente questo file quando viene spedito, cioè tipo il giorno prima della programmazione? Dunque, infatti la stupidità che poi fa nascere queste cose sono che la distribuzione italiana, non lo so per, cioè lo so, ma vabbè, adesso non voglio addentrarmi su questi argomenti, potrebbe benissimo spedire questo file anche un mese prima, perché comunque data in cui lui sarà attivo sul file del film può essere decisa tranquillamente. Certo, voi potreste, diciamo, sbloccare il file anche l'anno prima, ma se la data è quella X non ne faremo niente. Sì, certamente. Insomma, invece hanno accumulato tutto questo lavoro in un unico giorno, nelle ultime ore quasi, e purtroppo la Technicolor di Londra è andata proprio in tilt. Ecco, spieghiamolo che nel primo giorno di programmazione questa settimana, se non sbaglio giovedì, giusto, l'anteprima era giovedì, è successo un... Sì, guarda, noi abbiamo iniziato a ricevere chiavi alla mattina del giovedì, ma tutta una serie di chiavi non corrette, sbagliate, e tutto questo è proseguito praticamente fino a ieri mattina. Incredibile. Anche la chiave delle 19:30, di cui alcuni articoli hanno parlato, noi non eravamo in grado di controllarla perché la proiezione era in corso a 24 fotogrammi al secondo. E quindi alla fine del film l'abbiamo guardata pochi minuti prima per poter fare la proiezione delle 9 e anche lei era inefficace. Incredibile. Allora, questo è un problema di gestione di queste password, però abbiamo svelato anche questo. È chiaro che era complicata perché il film è uscito in tantissime sale in tutto il mondo, quindi è chiaro che era una mole di lavoro indubbiamente enorme, ma proprio per questo motivo doveva essere affrontata nei giorni precedenti. Abbiamo citato più volte questa nuova tipologia con cui viene proposto questo film, cioè a 48 frame, ovvero il doppio rispetto al classico. Fin da quando siamo bambini ci viene detto che i film sono a 24 fotogrammi al secondo. Che cosa cambia in questo caso? Perché il doppio? In realtà non è una nuova tecnologia, perché questa tecnologia veniva usata normalmente col 70 mm. Tra l'altro in Italia è stato fatto adesso non ricordo esattamente l'anno, ma credo intorno al 2001-2002, venne prodotto un documentario diretto da Tremble, che è quello che aveva fatto gli effetti di 2001 di Odissea nello spazio, con la fotografia di Rotunno. E fu un documentario di 20 minuti su Leonardo, girato interamente a Milano a 60 fotogrammi al secondo. Il problema è che girare in 70 mm a 60 fotogrammi al secondo richiede un sacco di pellicola, una cosa veramente difficile da gestire, figurati poi per un film di 3 ore, sarebbe veramente improponibile e costosissimo. Quindi questa tecnologia, che già si conosceva, era stata messa in parte per gli elevati costi e per la propria difficoltà materiale di gestire tutta la pellicola corrente. Quindi col digitale invece cambia tutto. Con l'arrivo digitale, quindi è stato Cameron il primo a dire, beh, però perché non andiamo a ripescare, perché veramente è una cosa notevole, perché sappiamo che l'occhio avrebbe bisogno, vede a 55 fotogrammi al secondo, l'ideale è il 60. E Peter Jackson ha girato 48, ma questo penso che sia dovuto comunque alla quantità di fotogrammi che in post produzione devono essere lavorati per gli effetti. Certo, quindi anche col digitale non si può esagerare, perché sennò vi dovrebbe arrivare un file. Tu dici che comunque nel momento in cui tu fai una produzione con parecchi effetti, in cui devi andare a lavorare e trattare ogni fotogramma, è chiaro che a 48 sì, il lavoro è immenso. Ma guarda, visto che voi l'avete già visto, alcuni spettatori lo hanno già visto, ma insomma la maggior parte non ancora. Ti assicuro che è eccezionale, ma io ho visto delle prove 2 anni fa a Los Angeles a 60 che fecero con Cameron, ed è proprio come aprire la finestra e guardare fuori. Cioè, è molto più naturale, insomma. Bellissimo, bellissimo, guarda. E questa tecnologia non tutti i cinema possono proiettarla. Dunque, la tecnologia in realtà richiede, tutti i proiettori in teoria sarebbero in grado di farlo. Per poterlo fare hanno però bisogno di delle schede madri diverse, un software aggiornato che adesso ha ancora dei costi. Per dirti, noi con 2 proiettori chiaramente abbiamo avuto anche un costo doppio, ma il costo equivale dai 30 ai 40 mila euro, cioè poter trasformare un proiettore normale che proietta 24 a uno che proietta 48 ci vogliono 30.000 euro. E un proiettore del genere quanto costa? Il proiettore, guarda, noi usiamo dei Christie 4K, che è veramente il top esistente oggi sul mercato, e supera i 100.000 euro ogni proiettore. E quante sale sono? Ho letto che una ventina di sale in Italia possono fare questo. Dunque, che hanno che hanno 4K, che proiettano con 2 proiettori in 4K in Italia, ci siamo solo noi e la sala IMAX di Pioltello, che usa però ancora i vecchi 2K, perché IMAX, non so, per scelte loro usano ancora i 2K, che sono quelli che noi avevamo fino all'anno scorso, insomma. Bene, Fumagalli, grazie per essere stato con noi. Naturalmente, insomma, invitiamo gli spettatori a provare questa nuova tecnologia. Sicuramente è un'emozione veramente da cui vale la pena avvicinarsi. A presto, buon lavoro. Ciao, grazie. Beh, molto bello. Abbiamo ribadito alcune cose anche per ricordare ad alcuni che forse si sono persi qualche puntata che oramai la pellicola non si utilizza più, o comunque ormai è residuale, marginale. Questo è 2024, siamo in diretta anche oggi. Vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci in diretta per le vostre domande o per le vostre considerazioni: 800 24 00 24. Anche gli sms 349-238-6666, potete utilizzare anche Twitter, @_Pagliarini per comunicare con me durante la diretta. Ci risentiamo tra un minuto. 2024. Parliamo di smartphone e anche di sistemi operativi. Secondo l'ultima rilevazione di Nielsen in Italia, pubblicata pochi giorni fa, Android è diventato il sistema operativo più diffuso e molti potrebbero chiedersi, ma non lo era già? Ne parleremo, però prima di parlare di sistemi operativi vogliamo sapere quanto sono diffusi gli smartphone nel nostro paese. Andrea Valadè, responsabile del settore telecomunicazioni di Nielsen. Certo, stiamo parlando all'incirca di un italiano su due. Oggi siamo gli smartphone, il 56% delle persone in possesso di un telefono cellulare, e quindi all'incirca quasi 30 milioni. E se dovessimo paragonare questo al mercato, che sicuramente è più piccolo, ma vorremmo capire quanto più piccolo, dei tablet, visto che sempre di terminali mobili stiamo parlando e sempre di terminali che hanno un sistema operativo che per la stragrande maggioranza è parente degli smartphone, perché Android è sempre Android, iOS è sempre iOS, con differenze, ma insomma sostanzialmente quelli sono i sistemi operativi. Oggi i tablet sono all'incirca 2 milioni e mezzo, è un numero ovviamente in forte crescita e oggi come oggi è molto ballerino, però stiamo parlando di circa un 5% della popolazione. Quindi diciamo che il tablet ce l'hanno ancora poche persone. Lo smartphone, più della metà della popolazione è sicuramente, o comunque più della metà di coloro che hanno un cellulare, quindi la stragrande maggioranza della popolazione, è una bella fetta di mercato. Secondo l'analisi che voi avete condotto sui sistemi operativi, quali sono i risultati delle ultime settimane? Sì, è fondamentale entrare nel dettaglio dei sistemi operativi, come dicevi, perché oggi come oggi è lì che i risultati cambiano in maniera molto radicale e molto forte, perché poi quando parliamo di circa 30 milioni di possessori di smartphone è fondamentale andare in profondità e capire come questi 30 milioni sono composti. Oggi il trend, insomma, che ci ha un po' sorpresi tutti è questa crescita di Android, che nel giro di un anno e mezzo, insomma, si posiziona in testa il sistema operativo che ha la penetrazione assolutamente maggiore. E questa è una crescita veramente in controtendenza rispetto a tutti gli altri player nel segmento smartphone. Insomma, ci ricordiamo tutti Symbian, per tanto tempo leader di mercato, oggi in calo, che si posiziona leggermente al di sotto, ma sicuramente questa scelta di Nokia di puntare su Windows ci fa pensare a un calo, insomma, abbastanza radicale e duraturo. Quindi Android prima di tutti, e un Android che si posiziona davanti in maniera molto chiara anche a iOS, riprendendo quello che è un trend internazionale, è così negli Stati Uniti, è così anche in Inghilterra e diciamo in gran parte del mondo. Se scendiamo nelle percentuali, stiamo parlando di che percentuale di penetrazione? Cioè, fatto 100 la torta degli smartphone Android, che fetta di mercato ha? Android oggi in Italia sarà al 36%, davanti a Symbian che tiene il 33%, e davanti a un iOS che si aggira intorno al 13-14%, più o meno flat rispetto alle rilevazioni precedenti. Sì, non cambia molto, poi vedremo, dal prossimo anno ci saranno anche le rilevazioni su iPhone 5, che è sicuramente un prodotto che era molto atteso, vedremo se cambierà qualche cosa oppure no. Windows Phone e BlackBerry contano poco? Sì, stiamo parlando da 5% Windows Phone, 7% BlackBerry, e è poco, però soprattutto per Windows Phone ha una certa rilevanza, nel senso che era un sistema operativo che non risultava fino alle rilevazioni scorse, e anche tutti gli analisti internazionali ci hanno sempre posto forte attenzione a questo sistema operativo, che anche per quella che è la sua concomitanza col mondo PC molto diffuso, sicuramente, insomma, fa presagire scenari molto interessanti. Sì, anche perché naturalmente immagino che in questi dati non venga tenuto conto dell'uscita dei nuovi prodotti Windows Phone che sono usciti circa un mese fa. Certamente, in realtà anche l'iPhone 5 non risulta, la rilevazione, insomma, è fatta a settembre, proprio in concomitanza dell'uscita, quindi questi dati, essendo, insomma, richieste al consumatore, hanno sempre iniziano a risultare, insomma, qualche mese dopo, ci vuole sicuramente un po' di tempo. Chiaro, evidente. Quindi a questo punto la grande battaglia è chi si prende le quote di Symbian. Android sicuramente cresce molto, anche perché, correggimi se sbaglio, uno dei motivi per cui Android cresce tantissimo è che ci sono un sacco di prodotti a basso costo che quindi favoriscono, insomma, si può comprare un telefono con delle ottime caratteristiche, che è uno smartphone che fa praticamente quasi tutte le cose che fanno i top di gamma, ma mentre per comprare un prodotto iOS, quindi di Apple, bisogna sborsare un sacco di soldi, con Android bastano addirittura un centinaio di euro. Sì, sì, in media diciamo che i nostri utenti dicono di spendere circa 200-230 euro per un device Android, conto quasi il doppio per un iOS, è ovvio che di questi tempi, insomma, ha reso accessibile lo smartphone, e smartphone evoluto a un pubblico che prima non lo vedeva accessibile. Non è neanche un caso poi quella che è la profilazione dei possessori di Android, che sono sicuramente più giovani e quindi con problematiche maggiori magari per acquistare un device top di gamma. E questo è il quadro più aggiornato delle ultime settimane sui sistemi operativi e gli smartphone e anche i tablet in Italia. Ci risentiamo tra qualche minuto. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. La seconda parte di 2024, sono le 16:07 minuti, c'è un nostro ascoltatore che chiede informazioni sulle TV. Allora vi ricordo che la settimana scorsa abbiamo parlato di TV, potremmo dire avete sbagliato puntata, e quindi vi consiglio, e come sempre lo facciamo, di abbonarvi al nostro servizio gratuito di podcast, che vi dà la possibilità di scaricare settimana dopo settimana il file MP3 di 2024, e quindi la settimana scorsa abbiamo parlato ampiamente di televisori. Allora ci sono un paio di ascoltatori che dicono, sentendo quello che è accaduto nell'erogazione dei codici di sblocco del film Lo Hobbit in giro per il mondo, e alcuni dicono vedete, se non ci fosse tutta questa tecnologia. No, qua la tecnologia c'entra proprio nulla, qua si tratta di errore umano, quindi sono, come dice il nostro capo dell'IT Sandro Fortunati, non sono le macchine a sbagliare, ma sono sempre gli uomini. Così come un errore umano c'è dietro al caos che ha mandato in tilt i treni di Trenord, le Ferrovie Lombarde, che hanno avviato da pochi giorni, creando veramente un gran caos, il software, un software spagnolo, GoRail, che era stato introdotto per gestire in automatico i movimenti dei locomotori e la gestione del personale. Se fossimo su Twitter potremmo lanciare l'hashtag megafail. Allora parliamo di due iniziative del Sole 24 Ore, tra poco abbiamo le nostre digital news e poi vi faremo ascoltare un'intervista che ho realizzato mercoledì con Franco Bernabè, il presidente esecutivo di Telecom Italia. Allora, dicevo, parliamo di due iniziative del gruppo 24 Ore. La prima è stata lanciata alcuni mesi fa in collaborazione con ING Direct per premiare con 100.000 euro la startup più interessante e innovativa. Per presentare il progetto ci sono ancora poche ore, c'è tempo fino a lunedì. Finora sono decine gli imprenditori o aspiranti imprenditori, ci sono anche delle interessantissime esperienze. Dicevo, sono decine quelli che si sono presentati, come ci ha spiegato Sergio Rossi, che è direttore marketing di ING Direct. Ma noi abbiamo ricevuto in tre mesi di progetto oltre 450 proposte di startup, che è un risultato di assoluto rilievo anche a detta di H Farm, che ci lavora tutto l'anno in questo mondo. Quindi direi che le idee ci sono e gli imprenditori ci sono in Italia. Ma il 50% delle startup hanno a che fare col mondo, diciamo, anche un po' della green economy, col mondo un po' dell'aspetto più sociale. Il 50% è tanto, e questo vuol dire anche che c'è un bisogno di maggiore socialità, un bisogno di maggiore comunicazione tra le persone. Per maggiori informazioni prendi parte al cambiamento.ingdirect.it oppure sul portale del Sole 24 Ore. C'è un altro concorso che riguarda il gruppo 24 Ore ed è il premio WWW 12esima edizione. Si è chiusa la prima fase, sono stati selezionati 230 progetti che potranno ora essere votati dal pubblico. E anche qui andate sul sito del Sole 24 Ore, molto semplice, www.ilsole24ore.com/premio-www. Tutti coloro che voteranno i propri siti preferiti parteciperanno tra l'altro ad un concorso a premi che mette in palio tante belle cose. Il concorso è aperto fino al 23 gennaio. Digital News. Adesso abbiamo alcune notizie dall'Italia e dal mondo. Iniziamo dall'Italia. Secondo i dati aggiornati dall'Autorità per le Comunicazioni, l'Agicom, che lo fa trimestralmente, nei primi 9 mesi dell'anno le linee fisse sono calate di oltre 500.000, meno 514.000. La quota di Telecom Italia è del 65,8%. Parallelamente all'abbandono del fisso, cresce il traffico internet mobile generato da smartphone e tablet. A settembre le SIM che hanno effettuato traffico dati hanno superato i 22 milioni con un aumento del 15% rispetto ad un anno fa. Il traffico generato da queste SIM è invece cresciuto del 31%. La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il decreto sviluppo 2.0 che è diventato legge. Legge che contiene qualche ingrediente che va sotto il cappello di agenda digitale italiana. Dico qualche ingrediente perché l'agenda digitale dovrebbe essere un progetto completo di sistema paese digitale. Qua abbiamo qualche accenno, però insomma prendiamo quello che viene di buono. Ci sono alcune norme che dovrebbero favorire la nascita di start-up, tra le altre cose. Le norme più imminenti, quelle di più imminente attuazione, da gennaio le amministrazioni pubbliche dovranno rendere accessibili i propri dati in modo da permettere a chiunque l'uso anche a scopi commerciali di questi dati, quindi i famosi open data. I contratti della pubblica amministrazione saranno siglati con firma digitale. Sempre a gennaio dovrebbe partire anche la cartella clinica digitale, già sperimentata in numerose regioni, ed è prevista la trasmissione per via telematica delle comunicazioni tra i vari tribunali. Ci sono naturalmente altre disposizioni, ma avremo tempo nei prossimi mesi per affrontarle, anche perché poi molto dipende dai famosi decreti attuativi. Allora, altra notizia, questa arriva dagli Stati Uniti. È disponibile da pochi giorni la nuova applicazione Google Maps per iPhone con Street View, informazioni sul traffico e anche la navigazione cosiddetta turn by turn, come è disponibile su tutti i classici GPS, quindi quella che ci dà indicazioni volta di qua, volta di là. Google Maps, lo ricordiamo, era stato sostituito da mappe di Apple con l'arrivo dell'aggiornamento 6 di iOS, mappe che però non si sono rivelate all'altezza di quelle di Google. Per essere buoni. A proposito di mappe, per smartphone e tablet da poco è disponibile sia per Android che per iOS anche l'applicazione Here di Nokia. Il nuovo servizio mappe naturalmente è nativo sui dispositivi Windows Phone. Il consiglio d'amministrazione di MetroWeb ha approvato un aumento di capitale fino a 55 milioni a sostegno di un piano di sviluppo di cui abbiamo parlato 2024. Per i prossimi 3 anni si parte da Milano con una rete Fiber to the Home, quindi fibra direttamente nelle case, rete che verrà destinata all'utilizzo di Vodafone e Wind per il momento, poi vedremo chi altro farà un accordo con MetroWeb. Nel progetto si prevede il collegamento di 40.000 edifici con una copertura complessiva di 600.000 unità immobiliari, quindi appartamenti. Si tratta di un piano che proseguirà poi in altre 30 città italiane. Parliamo del contratto del settore TLC, purtroppo c'è poco da dire perché da circa un anno è scaduto, ma dopo 2 giorni di trattative non si è ancora arrivati ad un accordo. Ultima notizia riguarda Google e Wind, che hanno lanciato un'offerta congiunta di Mobile Cloud. In mobilità ne abbiamo parlato con Luca Giuratrabocchetta, che è Country Manager di Google Enterprise Italia. La novità è avere un'offerta molto semplice, portata sul mercato da un unico soggetto, in questo caso Wind, per l'Italia, che porta end-to-end tutto quello che serve per lavorare in mobilità, dai terminali alla connettività, agli strumenti come la posta, la collaboration, la gestione documentale, end-to-end con un singolo call center di supporto, con un singolo prezzo, in maniera estremamente semplice ma molto aggressiva per le aziende italiane. Facciamo un esempio di quello che un'azienda può fare con questi servizi. Può dotare la sua forza lavoro, specialmente quella mobile, possiamo pensare a forze vendita o a forze di manutenzione e supporto o a retailer sul territorio, di strumenti che permettano di collaborare con l'azienda, tra di loro e eventualmente anche con i clienti o i fornitori, su un tablet o su uno smartphone. In particolare Wind porta sul mercato Android come tecnologia di riferimento. E di farlo in mobilità, senza avere bisogno di aiuto da parte di specialisti di tecnologia, usando strumenti molto semplici. È interessante perché questo è un trend che vedremo sempre più nei prossimi anni, e la prima offerta congiunta tra Google Apps nel mondo enterprise, quindi per le aziende, è stata lanciata assieme a Wind. Questo è 2024, siamo in diretta su Radio 24, vi ricordo il nostro numero verde 800240024, e visto che ancora non l'ho fatto, lo faccio adesso. Ringrazio Valeria Bernardi che oggi si occupa della parte tecnica e Nadia Zammitti che ci aiuta in regia. Ci risentiamo tra un minuto. 2024. Abbiamo iniziato questa puntata di 2024 parlando del Mega Summit di Dubai, e bisognerebbe anche capire quanto è costato all'ITU questa conferenza di 12 giorni a Dubai, con centinaia e centinaia di delegati in arrivo da tutto il mondo. Allora, abbiamo detto che si è registrato un sostanziale fallimento, perché su 144 paesi con diritto di voto solo 89 hanno firmato, 55 non lo hanno fatto, soprattutto Stati Uniti e Unione Europea, Italia compresa, non hanno firmato. Allora, questa grande conferenza di Dubai si innesta e direi che amplifica un dibattito mondiale che vede protagonisti molti dei soggetti di cui parliamo spesso a 2024. Devo dire che abbiamo parlato spesso anche di questa conferenza di Dubai. Allora, dicevo, a proposito di soggetti di cui parliamo a 2024, ne cito in particolare due. Allora, le società di telecomunicazioni che portano internet in giro per il mondo e lo portano fino a casa nostra, e i fornitori di contenuti, e di questi ce ne sono tanti, e sono i contenuti che noi utilizziamo, vediamo, ascoltiamo sulla rete internet. Sono i cosiddetti over the top, le società che stanno sopra di internet e sono svincolate dai fornitori di connettività. In alcuni casi coincidono, ma devo dire che negli ultimi anni soprattutto le grandi società di telecomunicazioni hanno abbandonato il business dei contenuti e quindi si sono concentrate sulla connettività. Allora, pochi di questi grandi fornitori di contenuti, e soprattutto americani, sono nel mirino delle società di telecomunicazioni per vari motivi che adesso elenchiamo. Allora, stiamo parlando, giusto per farci capire, di Google, Facebook, Amazon, Apple, eccetera, eccetera. Allora, vari motivi per cui sono nel mirino delle società di telecomunicazioni: generano molto traffico e, pur pagando per accedere ad internet, potrebbero e dovrebbero pagare di più, dicono alcuni operatori. Erodono quote di mercato in alcuni settori, questo succede già da tempo. Un esempio fra tutti è Skype, che si sostituisce alle telefonate, o i sistemi di messaggistica che erodono il business degli SMS, tutte cose che stiamo vedendo. Hanno regole più flessibili rispetto al settore delle TLC, che è per vari motivi molto regolamentato. Poi c'è il tema fiscale, non è molto tecnologico questo, ma comunque anche questo è un tema che è messo sul tavolo, e di sistema paese. Su questo vorrei spendere due parole perché è molto interessante. Allora, nella crescita di queste grandi società, soprattutto americane, e nella protezione di questi business, gli Stati Uniti mostrano, se mai ce ne fosse bisogno, tutta la loro capacità di sistema. Quando si dice sistema paese, allora non è un caso che a Dubai Washington abbia mandato una delegazione gigantesca, proprio perché al di là dei principi era concreta la minaccia alle aziende americane. Adesso poi anche sul fatto che fosse concreta o meno c'è un dibattito. Allora, all'interno di questo quadro che spinge le società di telecomunicazioni a sollevare alcuni problemi anche per difendere giustamente il loro business, anche questo quadro ha spinto Franco Bernabé, che è presidente operativo di Telecom Italia, a scrivere un libro che si chiama Libertà Vigilata, Privacy, Sicurezza e Mercato nella Rete. Allora, di questo abbiamo parlato pochi giorni fa, e quindi in questa puntata di 2024 vi proponiamo questa interessante e direi anche rara intervista di Bernabé alla radio. Noi non poniamo un problema, anzi non lo chiamerei nemmeno un ingombro, direi piuttosto che gli operatori di internet hanno dato una straordinaria vitalità alla rete, hanno fornito servizi gratuiti, sono stati un po' il lievito della crescita delle telecomunicazioni in questi anni. Il problema che noi solleviamo e che abbiamo sollevato come società di telecomunicazioni è che per competere sulla rete bisogna avere le stesse regole. Allora, poiché le regole che riguardano gli operatori di internet sono molto diverse dalle regole che riguardano gli operatori di telecomunicazioni, e queste regole sono diverse per aspetti critici anche dal punto di vista dei diritti di cittadinanza, come per esempio il diritto alla privacy. Ecco, noi diciamo bisogna che queste regole siano unificate, che gli operatori di internet siano soggetti agli stessi obblighi di quelli degli obblighi ai quali sono soggetti gli operatori di telecomunicazioni. Quindi non è solo un problema di traffico generato sulle reti da parte di questi over the top, giusto per farci capire, sistemi che erogano video e fotografie eccetera eccetera. No, assolutamente no, le reti nostre sono capaci di accomodare questa crescita del traffico sia sulle reti fisse sia sulle reti mobili. Tra l'altro il fatto che noi stiamo investendo adesso nelle reti di nuova generazione è proprio in funzione della crescita del traffico. Certamente uno degli elementi che ha fatto crescere il traffico negli ultimi anni, il traffico dati sulle reti, è stato il video. È stato il video sia in fase di scarico dei video, sia in fase di carico dei video da parte degli utilizzatori. Tra l'altro devo dire che in questi ultimi tempi si è notato un cambiamento della tipologia di flusso di traffico reti, di traffico video sulle reti. Mentre il cosiddetto peer-to-peer, cioè il traffico video fra singoli soggetti privati, che era molto aumentato nel corso degli ultimi anni, oggi diminuisce, aumenta invece il traffico di broadcasting, cioè di operatori che trasmettono video da un punto a molti punti della rete. Quindi è la tipologia di traffico che si modifica, e tra l'altro una tipologia di traffico che è più in linea con la struttura della nostra rete. Ma certamente noi non ci preoccupiamo del fatto che le reti debbano accogliere tutto questo traffico, anzi noi siamo contenti, stiamo facendo gli investimenti proprio per quello. Noi crediamo invece che, così come noi siamo costretti a rispettare le leggi che impediscono l'abuso dei dati personali e che controllano fortemente l'uso che viene fatto dei dati personali, il modo in cui si accede alle banche dati che contengono dati personali, così tutti quanti quelli che operano sulla rete dovrebbero essere costretti a fare la stessa cosa che facciamo noi. Sulle regole le faccio una ulteriore domanda, perché uno potrebbe pensare, quando è nata internet, o comunque anche solo 10 anni fa, tutti sapevate a che gioco stavate giocando. In qualche modo sembra che lei dica, però oggi noi vogliamo rivedere delle regole che 10 anni fa tutti conoscevano, alcuni ne hanno approfittato facendo un sacco di soldi, come stiamo vedendo soprattutto negli Stati Uniti, e noi siamo un po' in difficoltà perché i soldi non li stiamo facendo in questo modo. Ma no, io non direi assolutamente che è così. Prima di tutto perché il problema è che nel frattempo la rete si è evoluta molto e anche la tipologia di servizi sulla rete si è evoluta molto. 10 anni fa i social networks non esistevano, 10 anni fa non c'era un utilizzo così invasivo dei dati personali da parte degli operatori di rete. 10 anni fa c'era una comunità molto più piccola, con meno esigenze di sicurezza. Oggi e soprattutto andando verso il futuro, quando la rete avrà un utilizzo sempre più pervasivo, verrà utilizzata per una enorme quantità di transazioni finanziarie, il trattamento di dati che devono rimanere protetti e riservati. Ecco, questo significa che le regole con le quali deve essere usata la rete per un utilizzo così intenso e così critico e così delicato per le persone deve essere diverse, le regole devono essere diverse da quelle che c'erano 5-10 anni fa. Ecco, quindi questo è il problema che noi abbiamo posto e che secondo me va posto comunque e sarà sempre più urgente porselo nei prossimi anni. Senta, secondo lei la politica lo ha capito? Perché penso che i cittadini stiano abbastanza, comunque seguano, o comunque una parte della popolazione segua questa evoluzione. Non so se la politica, però lei ci dia un parere. Ma io direi che la politica è l'amministrazione, perché se io guardo per esempio ai trattamenti fiscali e vedo che mentre noi, per esempio Telecom Italia, che paga 1,5 miliardi di tasse l'anno, ma insomma il sistema degli operatori di telecomunicazioni in Italia paga parecchi miliardi di tasse, mentre invece ci sono soggetti che fanno centinaia e centinaia di milioni di ricavi in Italia e che sono totalmente protetti da qualsiasi pagamento fiscale, che non creano occupazione in Italia, che non fanno investimenti. Cioè, ecco, quando uno in un paese fa affari deve contribuire in qualche modo allo sviluppo e al benessere di questo paese. E noi crediamo che il contributo al benessere del paese debba venire da tutti, non debba venire solamente da una parte degli operatori di telecomunicazioni. Senta, voi che tipo di soluzioni proponete per risolvere questo problema? Ma io credo che non c'è un problema da risolvere, ci sono tanti problemi da risolvere. C'è il problema dei diritti d'autore, per esempio, che è un problema largamente ignorato e che adesso si sta affrontando. C'è il problema della parità di trattamento per quanto riguarda l'utilizzo di dati personali, che è un altro problema che si sta affrontando adesso. C'è il problema della fiscalità. Ma insomma, i problemi sono tantissimi. La verità è che il mondo virtuale ha delle regole diverse dal mondo reale e quindi bisogna cercare di adattare le regole a un mondo che si sposta sempre di più verso il virtuale, perché altrimenti rischiamo di rimanere con dei problemi aperti molto seri. Però voi a livello, diciamo, almeno europeo, alcune soluzioni le avete proposte. Ad esempio, adesso aspetteremo i risultati dell'ITU a Dubai, in quella sede voi avete inviato alcune proposte. Sì, noi abbiamo inviato alcune proposte a Dubai, ma sono alcune proposte che sono state lanciate soprattutto per favorire l'emergere del problema e la discussione del problema. Che poi si trovino soluzioni, tutte le soluzioni a Dubai, non credo assolutamente. Dubai è una grande conferenza internazionale con tanti interessi, con tanti soggetti che sono intorno al tavolo e quindi la soluzione sarà di compromesso. Devo dire che nel 1988, quando venne fatta la precedente conferenza internazionale a Melbourne per la regolazione del sistema di telecomunicazioni, le risposte che vennero date furono talmente solide che praticamente per 25 anni non hanno dovuto essere cambiate. Io credo che anche in questo caso le regole che emergeranno da Dubai saranno regole che saranno sufficientemente robuste, se lo si vorrà, perché durino nel tempo. Se non saranno robuste, vorrà dire che si troverà un'altra occasione per modificarle. Ma il problema consiste nella necessità di affrontare dei temi che oggi sono ancora largamente ignorati e che rappresentano dei problemi di cui fino adesso non c'è stata percezione forte, ma che progressivamente diventeranno sempre più evidenti. Mi riferisco per esempio al diritto all'oblio, cioè uno che mette delle sue considerazioni personali su un social network non può essere chiamato fra 5 anni o fra 10 anni, quando la penserà in modo completamente diverso, ad essere responsabile di affermazioni dette magari in un momento di distrazione, in un momento di sconforto o di rabbia, e che gli vengono rinfacciate perché i social networks li hanno registrate, non le hanno cancellate, non ha potuto eliminare il suo profilo da social network. Ecco, questi sono tutti temi che secondo me dovranno essere approfonditi, e se non sarà Dubai sarà un'altra conferenza, ma verranno approfonditi e discussi e risolti. Beh, speriamo risolti. Continueremo tra poco. Naturalmente questa intervista è stata realizzata mercoledì a conferenza di Dubai ancora in corso, quindi per questo abbiamo fatto queste affermazioni dicendo, utilizzando il verbo al futuro. Quindi Dubai la possiamo archiviare, anche se poi sarà interessante leggere per bene tutta la documentazione che sta uscendo ed è uscita, e soprattutto capire se questa firma di soli 89 paesi su 144 e che tipo di valore avrà. Sono le 16:31 minuti, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, ci risentiamo tra qualche minuto. 2024. Scrivete al nostro indirizzo di posta elettronica durante la settimana 2024@radio24.it. Riprendiamo, io sono Enrico Paglierini, questa è 2024, la puntata di oggi è dedicata a vari temi. Adesso stiamo ascoltando una chiacchierata che abbiamo realizzato qualche giorno fa con Franco Bernabè, che è presidente di Telecom Italia. Sicuramente una frase vorrei sottolineare che mi trova molto d'accordo, cioè che i temi di cui stiamo discutendo, ad esempio quello della privacy, sono stati per lungo tempo e direi ancora oggi ampiamente ignorati. Faccio un esempio, pochi minuti fa vedevo una notizia che riferiva che la polizia nel Connecticut, dopo la strage avvenuta ieri negli Stati Uniti, diceva dalla email dell'attentatore le email dell'attentatore potevano far capire le sue intenzioni. Allora qui esiste un dibattito che è già in atto soprattutto negli Stati Uniti, dove molte agenzie governative federali vogliono mettere sotto controllo sempre più i dati che vengono diffusi su internet. Ad esempio, mettiamo sotto controllo tutte le email perché in questo modo possiamo beccare un attentatore, è quello che si sta che alcuni stanno dicendo, ma certo è un dibattito molto delicato e molto complesso, quindi è importante che di questi temi si parli, e devo dire che purtroppo anche la stampa ne parla poco, parla di tecnologia solo per parlare, discutere di smartphone, a volte parla di tecnologia senza competenza, quindi anche questo è importante. Io non sono molto d'accordo con Bernabè, che è stato estremamente diplomatico nell'affrontare la politica. Io ritengo che la politica sia ampiamente ignorante su questo tema e gli ho fatto un'ulteriore domanda su questo. Ma io direi invece che certamente da parte europea, soprattutto per quanto riguarda la privacy, il commissario Reding si è dato molto da fare, e credo che le nuove direttive sulla privacy a livello europeo, che riguardano anche le società di internet, siano un passo in avanti importante. Quanto queste riusciranno poi a essere realizzate è tutto da vedere, però intanto la consapevolezza c'è, e questa consapevolezza ci porta a fare dei progressi su un fronte estremamente delicato. In Italia devo dire che il garante della privacy è consapevole di questi problemi e per quanto in suo potere li sta affrontando. In generale è vero che c'è una sensibilità ancora limitata, perché c'è ancora, prima di tutto perché c'è un'enorme capacità di lobby di queste società di internet, sia a livello internazionale sia a livello domestico, e quindi una capacità forte di influenzare l'opinione di tanti che pensano che tutta la novità sia da una parte e tutto invece l'arretratezza sia dall'altra parte. Invece, come sempre nella vita, le cose sono bilanciate, la verità non sta mai da una parte né dall'altra, e quindi bisogna farsi un'opinione molto articolata delle cose. Senta, se ho capito bene, una delle soluzioni che voi proponete, comunque una delle idee che voi avete, è cominciare a fare servizi di qualità da erogare al cittadino, comunque al vostro cliente finale. Ci può spiegare che cosa intendete? Ma ci sono la rete internet, credo che molti lo sappiano, però va spiegato. La rete internet non ha garanzia di qualità. La rete internet funziona con un criterio che è il criterio della, quello che si chiama in inglese, il criterio del best effort, cioè è un criterio per cui, diciamo, la rete funziona al meglio. Allora, funzionando al meglio significa che i pacchetti che vengono spediti con la rete, alcuni vanno persi, altri si ritardano, e quindi non c'è garanzia di una qualità dei servizi che vengono erogati sulla rete. Anche se non funziona male, eh? Oggi non funziona male. No, assolutamente non funziona male, però ecco, una cosa è fare una videoconferenza in Skype con un amico che sta a Hong Kong, un'altra cosa è fare un'operazione di microchirurgia con un chirurgo che da Milano deve operare nel centro dell'Africa. Ecco, io credo che la qualità che deve essere erogata nel caso di una videochirurgia deve essere ben diversa dalla qualità che uno può erogare quando fa una chiacchierata con un amico su una chat o su Skype. Chiarissimo. Questo vale anche per il consumatore finale, cioè per la DSL, che per la lice che voi vendete ai clienti? Ma per la lice che noi vendiamo ai clienti c'è un altro tipo di problema. che riguarda internet. Noi, come Telecom Italia, abbiamo una politica di garanzia della sicurezza estremamente elevata, e quindi noi lavoriamo costantemente per garantire la sicurezza sulla nostra rete. Noi abbiamo i cosiddetti, quelli che si chiamano tecnicamente i vasetti di miele, che intercettano i virus, i software maligni, eccetera, eccetera, eccetera. Però il fatto che la rete, in rete, allignino questi virus maligni è un fatto che deve essere ripensato. Cioè, noi proteggiamo i nostri clienti, ma la rete di per sé non è un ambiente sicuro per fare delle transazioni delicate. E quindi c'è una necessità di un ripensamento di alcuni elementi architetturali della rete, che consentano di dare garanzia dell'identità e della sicurezza delle transazioni. Una sicurezza che per il momento è garantita dagli operatori con le loro infrastrutture, ma che può essere messa a rischio dall'architettura stessa del sistema. Di fronte a questo c'è chi teme che voi siate, non per principio, ma diciamo poi tecnicamente in pratica, contro la net neutrality. Ma guardi, la net neutrality è un concetto che invece noi consideriamo molto importante. Cioè, io credo che la bellezza della rete è che non ha censure, ognuno può esprimere la sua opinione, non può esserci, diciamo, una segregazione di pacchetti di un certo tipo rispetto ad altri, e quindi direi che la messa in discussione della neutralità della rete non c'è. È chiaro però che la rete deve garantire diversi livelli di qualità, e questo ha poco o niente a che fare con il teorema della qualità della rete. Non può esistere una sola rete indifferenziata a qualità non garantita, buona per tutti. Devono esserci diversi livelli di rete sui quali chiunque abbia un certo tipo di servizio deve poter accedere, deve poter utilizzare, che non dipende solo dalla banda che uno richiede per utilizzare certi servizi, dipende anche da tante altre cose. Cioè, io dico, per esempio, chi ama fare dei giochi online deve avere delle caratteristiche di latenza, quindi di rapidità con cui il movimento viene trasmesso, che è diverso da quello che, di cui ha bisogno uno che fa una videoconferenza. Ecco, tutte queste cose vanno enucleate, vanno individuate, vanno valorizzate dal punto di vista degli operatori della rete. Potrà esserci ad esempio un'offerta in cui, non so, si vede molto bene Kubo Vision, Kubo Music, o comunque tutte le altre offerte di Kubo, e magari qualche altro servizio no, perché non fa parte di un accordo che sta all'interno di Telecom Italia? Il servizio, guardi, quello che oggi avviene è che una volta che si accede dall'estremità della rete, uno gode dei servizi che la rete offre, che sono indifferenziati. Se io voglio offrire un servizio di altissima qualità a un mio cliente, io gli porto i contenuti non all'estremità della rete, ma gli porto i contenuti vicino a casa, cosa che io faccio con quelli che si chiamano i Content Delivery Network. Quello è un servizio che non ha niente a che fare con la qualità indifferenziata della rete, è un servizio specifico per qualcuno che vuole, per esempio, la televisione 3D dalla rete, e che quindi ha bisogno di una disponibilità di banda o di una di particolari caratteristiche che sono specifiche per utilizzare quel servizio. Quel servizio ovviamente va pagato, perché significa mettere più infrastrutture in rete, mettere più server, mettere una content delivery network vicina al cliente finale, significa costruire, ecco, significa spendere, e quindi questo va remunerato. Le faccio una domanda sui prezzi. Se le dico che per diffondere internet dovremmo avere ADSL o comunque magari in futuro fibra a basso prezzo, quindi prezzi anche più bassi rispetto ad oggi, cosa mi dice? Beh, io le dico che i prezzi in Europa sono fra i più bassi del mondo. I prezzi in Europa sono un terzo di quello che sono negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti un cliente medio di un operatore telefonico che ha i tripli servizi, cioè il telefono, internet e la televisione online, paga circa $150 al mese, quindi paga circa 100 euro, più o meno 100 euro, un po' più di 100 euro al mese. Ma diciamo dipende da che tipo di servizio uno compra, ma sono fra i 120 e i $150. Quindi diciamo fra gli 80 e i 120 euro. In Europa andiamo mediamente fra i 20 e i 40 e l'Italia è uno dei paesi dove internet costa di meno in assoluto, con collegamenti che sono di buona qualità, nonostante tutto quello che si dice, perché poi gli italiani sono un po' abituati a piangersi addosso, salvo poi riscontrare, come fanno tutti quelli che viaggiano, che quando sono in un paese dell'Inghilterra piuttosto che degli Stati Uniti, trovano più difficoltà a collegarsi a internet e hanno delle performance peggiori su internet di quelle che hanno in Italia. E quindi io direi, cioè, noi pensiamo che tutto quello che è avvenuto in questi ultimi anni in termini di concorrenza abbia fatto abbassare i prezzi a un livello tale che oggi sono certamente alla portata di tutti, quindi non è certamente spendendo 20 euro in più o 20 euro in meno che uno deve fare, voglio dire, dei grandissimi sacrifici per accedere a un mondo straordinario come quello di internet. Quindi io credo che l'abbassamento ulteriore dei prezzi non solo non gioverebbe, no? Nonostante il fatto che comunque i prezzi continuano a scendere, ma credo siamo al punto in cui l'abbassamento ulteriore dei prezzi limita la capacità di investimento e quindi limita la qualità futura dei servizi. Quindi potrebbero aumentare? Ma io credo che per il momento siamo ben lontani dall'avere la prospettiva di un aumento dei prezzi. Se lei consideri che solo nelle telecomunicazioni mobili i prezzi scendono del 20% l'anno, 15-20% l'anno, ecco, io direi che siamo veramente molto lontani da una prospettiva in cui i prezzi possano aumentare. Questa è la voce di Franco Bernabè, presidente di Telecom Italia. Vi facciamo sentire l'ultima parte dell'intervista tra poco. Dico solo una cosa sui prezzi degli Stati Uniti, che secondo me sono un po' più bassi, anche perché si trova mediamente, almeno io ho fatto un giro di telefonate e di email questa settimana, è vero che i prezzi sono decisamente più alti rispetto all'Europa, ma si trovano offerte decorose di buoni collegamenti a internet con telefono e anche TV a $70-80. Però certo, sicuro che i prezzi sono mediamente più alti. Si trova anche qualcosa un po' a meno, ma con collegamenti piuttosto ridicoli. Bene, ci fermiamo per un minuto, questo è 2024, riprendiamo tra poco. 2024. Abbiamo iniziato l'intervista a Franco Bernabè parlando di una situazione che sta emergendo negli ultimi anni, soprattutto le società di telecomunicazioni stanno sottolineando questo quadro che abbiamo descritto: da una parte le società di telecomunicazione, dall'altra parte i cosiddetti over the top, quindi i grandi player internazionali. Allora, io ho sentito, tra le tante cose che sono state scritte e dette nelle ultime settimane, che le telco, quindi i grandi operatori, soprattutto gli ex monopolisti come Telecom Italia, di dire i nostri ricavi si riducono, gli over the top fanno un sacco di soldi, noi dobbiamo investire per nuove reti, e io metto tra parentesi che secondo me lo Stato deve intervenire per investire in molte zone, portare la fibra anche al di là dei progetti che sono stati annunciati, ma di questo abbiamo già parlato, sicuramente torneremo a parlare. Tornando alle telco, dicono le telco, se una parte di questo denaro non rimane nelle nostre reti, facciamo fatica a fare gli investimenti. Allora sentiamo su questo punto Bernabè. Beh, prima di tutto nessuno si lamenta del fatto che i nostri ricavi sono scesi perché gli over the top hanno inciso sui ricavi dei soggetti, degli operatori di telecomunicazioni. I ricavi sono scesi perché c'è stata una concorrenza molto forte e perché la tecnologia ha consentito una riduzione dei costi, e questo ha di fatto beneficiato il cliente. La cosa che in qualche modo pone dei problemi è il fatto che noi dobbiamo accelerare in un contesto di ricavi decrescenti, noi dobbiamo accelerare gli investimenti, quindi spendere molto di più. Cioè il problema è la forbice fra una caduta della cassa generata dal business e un aumento invece dei fabbisogni per investimento. Ecco, quello è il problema, ma non può essere risolto. Cioè, da questo punto di vista gli operatori internet hanno poco da dare. Direi che il problema che ci riguarda è il problema dei modelli di business che loro perseguono e che noi non possiamo perseguire, perché il terreno di gioco è completamente diverso e loro hanno delle regole che noi invece loro non hanno le regole invece che noi abbiamo, e quindi c'è una disparità di trattamento enorme, è quello che viene contestato. Certamente da questo punto di vista una separazione della rete non apporta nessun tipo di beneficio. Quello che noi ci aspettiamo invece è avere un sistema regolatorio molto più flessibile, che non sarà mai ovviamente quello degli operatori internet, ma che certamente è meno pervasivo di quello che noi abbiamo adesso. Però sicuramente una società che ha un piano a medio-lungo periodo probabilmente è più sollevata rispetto a certi vincoli che voi avete, che sono magari più legati al breve periodo negli investimenti. Beh, io su quello direi di no, perché gli investimenti noi li stiamo facendo e stiamo anzi accelerando. Tra l'altro chiunque può, almeno nelle tre città sulle quali noi stiamo investendo pesantemente in fibra, può già vedere i nuovi armadi stradali con il sopralzo che serve per dare i servizi in fibra. Quindi noi gli investimenti li stiamo facendo, continueremo a farli. Una società di questo genere ha comunque dei problemi di natura economica e finanziaria che sono esattamente gli stessi che abbiamo noi adesso, quindi non cambia la natura dei problemi. E direi che quindi non è quello il motivo. Il motivo essenziale è il sistema regolatorio e come questo viene impattato da un'eventuale trasformazione organizzativa. Senta, l'Italia vista, diciamo, come Telecom Italia nel mondo. Allora, voi siete in Sud America, però faccio un parallelo e voglio capire, insomma, qual è la sua visione. Noi abbiamo società, sono sempre meno effettivamente, che si muovono molto bene all'estero e sono anche strategicamente un braccio del paese nel mondo. Ad esempio l'Eni, che lei conosce bene. Non mi sembra che Telecom stia più facendo questo. Però mi chiedo se forse non è il caso di dare una riaccelerata. Capisco che c'è il debito e quindi che è un vincolo, però forse ci sono alcuni mercati che meriterebbero un'attenzione in più. Beh, io direi che anche lì è il contrario. Cioè noi abbiamo continuato a investire in Brasile e in Argentina, che erano due paesi dove noi siamo. Il Brasile, tra l'altro, è un paese che ha una dimensione continentale, quindi è un paese che assorbe una quantità rilevantissima di risorse e che ha un potenziale di crescita molto elevato. Quindi direi che per noi i tre paesi in cui siamo sono sufficienti per impegnarci in modo consistente nei prossimi anni. L'Africa? No, l'Africa è ben presidiata da tante altre società e noi non abbiamo nessuna intenzione di metterci a fare concorrenza dove c'è già tanta o troppa concorrenza. Per noi il Brasile è già un continente, e quindi direi che poi questo è vero per tutte le altre società italiane che operano all'estero. Il Brasile è uno dei paesi dove c'è più spazio per le società italiane e più potenzialità di crescita in futuro. Beh, una guardatina all'Africa gliela darei. Tutti gli operatori con cui parlo e soprattutto molti investitori finanziari mi dicono che l'Africa è la nuova Asia ed è molto interessante perché si trova al di là del Mediterraneo. Bene, concludiamo questa puntata di 2024. Abbiamo fatto ascoltare questa lunga intervista, anche rara intervista, di Franco Bernabé alla radio per parlare di tanti temi, e sicuramente va dato atto alle telco che parlo di società di telecomunicazioni ex monopoliste, soprattutto a livello europeo, di aver lanciato una serie di frecce di qua e di là e di aver attivato un dibattito, perché questo è molto importante ed è molto importante che la politica poi affronti tutto ciò. Per concludere, solo uno sguardo alle parole più ricercate su Google che sono state pubblicate pochi giorni fa. A me non piacciono mai queste classifiche perché poi vengono depurate dalla verità, perché ad esempio tutte le parolacce e le cose sporche vengono tolte, quindi il quadro è sicuramente parziale, però fa un po' pensare, fa un po' ridere, ma fa un po' pensare sull'alfabetizzazione tecnologica degli italiani, che tra i termini più ricercati allora c'è Facebook, YouTube, Libero, e sono i primi tre ricercati su Google. Io poi non capisco perché uno deve andare su Google per cercare Facebook. Vai sulla stringa dove va scritto l'indirizzo e scrivi www.facebook.com. No, ma la cosa più ridicola è che al quarto posto tra i termini più ricercati c'è Google, quindi gente che va su Google e cerca Google. E adesso non voglio dire parolacce in onda perché non è mio solito, però secondo me uno deve essere un po' cretino ad andare. Poi c'è chi durante la settimana mi ha detto: no, ma probabilmente saranno quelli che con Chrome vanno nella barra dell'indirizzo e scrivono Google per andare su Google, senza sapere che Chrome, essendo di Google, è integrato ed è già lui il programma di ricerca, se si può fare la ricerca tranquillamente dalla stringa dell'indirizzo. Bene, bene, bene. Chiudiamo questa puntata. Grazie a Valeria Bernardi che si è occupata della parte tecnica, Nadia Zammitti in regia. Vi ringrazio per l'ascolto, come sempre scaricate il podcast, ci risentiamo la prossima settimana e a proposito dei temi che abbiamo affrontato oggi parleremo tra le altre cose di privacy. 2024. 2024. 31 seconds.